Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, ultima puntata di Focus Economia della settimana. E allora, borse molto altalenanti oggi, ma almeno per quello che riguarda Milano in recupero adesso, erano positive fino a metà giornata, poi sono andate, come dicono gli esperti, in territorio negativo, poi adesso hanno recuperato più 1,20% Milano, invariata Francoforte, più 0,40 Parigi, invariata Londra, l'America più 0,20. Questa mattina l'Asia aveva incamerato anche i cali dell'Europa e dell'America di ieri, meno 2,5% a Hong Kong. Tra i titoli, segnaliamo un recupero netto, nettissimo, per alcune banche. Intesa San Paolo più 6%, torna sopra un euro per azione, UbiBanca più 5%, UniCredit più 5%, la Popolare di Milano, che già ieri si era mossa in maniera diversa, essendo più che positiva in un mercato tutto in pesante calo, e dicevo, la Popolare di Milano guadagna il 7,7%, sempre sul fronte bancario recupera anche il Monte dei Paschi più 2,90% e Fondiera Assai più 2%, bene Finmeccanica più 4,20%, Fiat più 3,60%, Azimut più 3% e Impregilo più 2,80%, Telecom più 2,60%, male Tods meno 5%, Prismia meno 4,60%, Autogrill meno 3%, Enel meno 2,2%, Saipem meno 2%. Di nuovo sono un po' in difficoltà i titoli energetici, tant'è che Enel è invariata ed Eni guadagna l'1,31%, mare controllate appunto Saipem perdono il 2% e anche Snamrat e Gas perde lo 0,80%. Ci occuperemo di materie prime nel corso del programma, perché i prezzi delle materie prime sono in non rapido, non drammatico, ma sono in calo. Ed è, ripeto, una buona notizia per chi produce, per chi deve importare materie prime. È una notizia meno buona sul fronte complessivo, perché i cali di queste materie prime sono dovuti alle attese di un rallentamento dell'economia. Però insomma, c'è anche l'aspetto positivo quando cala il prezzo delle materie prime, è inutile negarlo. L'euro a quota 1,3541. Dicevo, oltre a Tods, Prismian, Autogrill ed Enel, anche Mediaset perde l'1,60%, e c'è il Banco Popolare, che è l'unica banca assieme alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna a perdere anche oggi, meno 1,40%, la Pop Emilia Romagna meno 0,60%. Partiremo in apertura chiedendo a chi gestisce, o meglio chi fa il capo economista di un fondo tra i più importanti. Spesso ne parliamo dei fondi sovrani, sono i fondi degli stati, i più ricchi sono quello indiano, quello cinese e quelli del Medio Oriente, intesi come penisola araba. Oggi avremo ospite il capo economista del Fondo Sovrano dell'Oman, e che vuol dire gestire decine di miliardi, quindi parecchie manovre finanziarie da investire in giro per il mondo, comprando aziende, comprando anche titoli di Stato, per capire come veda l'Italia, oltre che l'Europa, da una prospettiva appunto dei paesi produttori di petrolio o dei ricchi paesi, diciamo, della penisola arabica, e se investirebbe o no nelle banche italiane. Non stiamo invitando politici, ma faremo un'eccezione alle 18:15, perché il senatore Nicola Rossi appartiene al gruppo misto della Camera, perché preferiamo parlare con gli operatori. Parleremo anche delle materie prime, poi come sempre gli altri aggiornamenti. 349-238-6666 per i vostri SMS. Partiamo subito con le notizie in breve. L'oro scende ancora, scende sotto quota $1,700, praticamente è sceso $1,699 per un'oncia, ripeto, un'oncia troie vuol dire 31,1 grammi, $1,696 l'ultimo prezzo, $46 in meno rispetto al prezzo precedente. E anche il petrolio, e scende sotto gli $80 al barile, a $78,75. la crisi 2.0, la Germania insiste, non vi è nessuna apertura possibile sugli euro bond, quindi su obbligazioni, su bot di carattere europeo in cui vadano a confluire alcuni dei debiti europei, mentre Moody's, agenzia di rating, sulla Grecia ha tagliato il voto a 8 banche, e poi sulla Grecia è arrivata anche una notizia, diciamo, di cui sentivamo la mancanza. Ci ha pensato questa volta non un tedesco, ma un olandese. E devo dire che sul fronte economico Olanda e Germania sono molto allineate. Ricordate il primo presidente della Banca Centrale Europea era un olandese. Duisenberg è però molto tedesco come mentalità. Allora, oggi ha parlato non un olandese qualunque, né un olandese volante, ma il presidente della Banca Centrale Olandese, Klaas Knot, che è anche uno dei membri del Consiglio della Banca Centrale Europea. E a cosa ha detto? Ha detto: il default, cioè il fallimento della Grecia, è uno degli scenari possibili. Sono stato a lungo convinto che non fosse necessario, ma le novità ad Atene non sono incoraggianti. Tutti gli sforzi sono volti a prevenirlo, ma adesso sono meno sicuro di poter escludere un fallimento rispetto a 2 mesi fa. Non è escluso quindi che la Grecia fallisca. È il primo membro della Banca Centrale Europea che parla in questo modo ed è il primo membro della Banca Centrale Europea che si becca il nostro gufo. Ha ragione l'ascoltatore che dice: guardate che anche il gruppo misto non è un gruppo politico. Sì, non appartiene, siamo, a nessun partito politico. Comunque avete ragione, ci mancherebbe. Al di là del gufo dato al presidente della Banca Centrale Olandese, nonché membro della BCE, come vanno oggi CDS e spread, due termini che sono diventati quasi di moda, fra un po' se ne parlerà anche al bar, perché misurano il rischio paese. La differenza tra noi e la Germania resta altissima, tra quanto costa la Germania trovare finanziatori per il proprio debito e quanto costa noi, cioè quanto dobbiamo offrire noi per trovare qualcuno che ci compri il debito. La differenza resta quasi il 4% nel rendimento e il nostro spread infatti è a 397 punti. I CDS, quindi i premi pagati per le polizze per assicurarsi sul rischio Italia, sono sempre molto elevati, sempre sopra i 500 punti, quindi sempre a livello record 535 punti. E finalmente arriva anche un banchiere, e non un banchiere qualunque, ma il presidente dell'ABI, oltre che presidente del Monte dei Paschi, mi riferisco a Giuseppe Musseri, che oggi a dire che cosa potrebbe capitare alle imprese se va avanti questa situazione, cioè se si mantiene questa differenza tra quanto costa a noi indebitarsi e quanto costa alla Germania. Ha detto infatti oggi Musseri, intervenendo all'Assemblea degli Industriali Toscani: se il rischio paese, il rischio Italia, continua a essere prezzato, quindi avere questi prezzi come spread, come CDS, come in questi giorni, è difficile non credere che non abbia un riflesso sulle relazioni creditizie. Occorre lavorare tutti insieme per fare fronte e migliorare le ragioni creditizie. Tradotto vuol dire: se gli spread continuano a questi livelli, vi sarà più difficoltà per le banche a prestare denaro alle imprese, oltre che ai cittadini. E sempre nell'Assemblea degli Industriali Toscani è intervenuta anche la presidente Confindustria Marcegaglia, che ha detto che Confindustria è pronta a scindere le sue responsabilità da quelle del governo, perché vogliamo un cambiamento vero, vogliamo una vera discontinuità e la vogliamo velocemente. Basta con le piccole cose, non siamo più disponibili a stare in una situazione di stallo. Per questo al tavolo del governo Confindustria presenterà un documento, un manifesto delle imprese insieme alle altre associazioni per salvare l'Italia. E ha insistito la Marcegaglia dicendo che è un documento che non riguarda le imprese, ma è per l'Italia. Le vendite al dettaglio nel mese di luglio, meno 0,1% sul mese di giugno, ma soprattutto meno 2,5% rispetto a luglio del 2010. Le vendite del dettaglio sono un indicatore forse impreciso, ma l'unico che abbiamo a livello di Istat per capire come vanno i consumi. Meno 2,5 rispetto all'anno precedente. Siccome sono in valore, bisogna anche aggiungere l'inflazione, quindi con l'inflazione siamo a un meno 4,5, meno 5% nei consumi. Il dato è il peggiore dal gennaio del 2010, ossia da quando si uscì da quella, insomma, dal peggior anno economico degli ultimi tempi. Però ci sono delle cose interessanti, anche se Confcommercio dice a fine anno i consumi peggioreranno. Ci sono delle cose interessanti perché sono calate di molto anche le vendite, cioè la spesa per i prodotti alimentari. Però, e qui sto a dimostrare che siamo di fronte a una neosobrietà, come diceva il compianto Giampaolo Fabris ai nostri microfoni, e non a un neo, a una neopovertà in senso stretto. Però si tengono sia le vendite di telefonini di ultima generazione, scusatemi, dall'iPad agli smartphone, ma anche i prodotti di cura della persona come creme e profumi. Tant'è che gli alimentari fanno meno 2% in valore, che vuol dire meno 4,5% al netto dell'inflazione, ma i prodotti informatici e la telefonia fanno più 0,2% e profumeria e cura della persona hanno il calo, come prodotti hanno il calo più contenuto di tutti i comparti, meno 1,4%. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms. No, prima sorridevo perché l'ascoltatore ha chiesto a un nostro affezionato le mie dimissioni prima ancora che iniziassi a parlare. Datemi il tempo, adesso ci penserò questo weekend. Partiamo prima però cercando di capire come chi gestisce miliardi degli Emirati Arabi, dei petrolieri arabi, chiamateli come volete, sta muovendo i suoi investimenti. E allora ci colleghiamo col Sultanato dell'Oman, non sto scherzando, questa è Focus Economia, le telefonate sono tutte vere. Ci colleghiamo col Sultanato dell'Oman, dove è in collegamento il capo economista del Fondo Sovrano dell'Oman stesso, fondo, ripeto, che gestisce decine di miliardi di euro, e mi riferisco a Fabio Scacciavillani, che tra l'altro in precedenza ha lavorato come economista alla Banca Centrale Europea e al Fondo Monetario Internazionale. Buonasera, dottore. Buonasera e buonasera agli ascoltatori. Allora, lei è il capo economista di un fondo che, insomma, gestisce svariati miliardi di dollari. Quello che fanno i fondi sovrani e anche i fondi di private equity è andare a selezionare paesi e o società dove investire. Questo lo dico agli ascoltatori. Prima domanda, insomma, dalla percezione e dalla prospettiva medio orientale, quanto viene ritenuta a rischio l'Europa e come vi spiegate anche questo continuo attacco ai debiti sovrani europei, ma anche alle banche europee, dell'area euro soprattutto? Sì, guardi, noi guardiamo alla situazione con estrema preoccupazione, inutile utilizzare perifrasi qui, chiaramente la crisi fiscale in Europa e in una certa misura anche negli Stati Uniti è un elemento che ha potenzialità destabilizzanti. Ora, una crisi dell'euro che portasse a un'implosione della moneta unica avrebbe conseguenze per generazioni. Ma se ci fermiamo un attimo su quello che sta avvenendo nei mercati in questi giorni, il problema secondo me è questo. C'era stata un'implicita promessa da parte dei governi nel 2008-2009 che si sarebbero messe risorse ingenti a disposizione per stimolare la crescita e che quindi con queste manovre eccezionali, sia dal punto di vista fiscale sia dal punto di vista monetario, la crescita avrebbe piano piano preso piede e con gradualità questi debiti, queste misure eccezionali potevano essere riassorbite. Ora, questa strategia è fallita e il problema dal punto di vista di un investitore è che non si vede all'orizzonte qualcosa che possa modificare la situazione, qualcosa che possa fare da catalizzatore per una ripresa economica. Vediamo con preoccupazione diatribe sia negli Stati Uniti tra l'amministrazione e il Congresso e vediamo diatribe soprattutto all'interno dell'Unione Europea tra la filosofia che, riassumendo, si può definire tedesca e l'approccio degli altri paesi che vorrebbero essere un po' meno drastici. Ora, da questa serie di contrasti non si vede la via d'uscita e per cui è chiaro che non c'è più fiducia o quantomeno la fiducia si sta erodendo sui debiti dei paesi più a rischio e sulle banche, ma banche e debiti sovrani in realtà sono tutti in un unico calderone perché sono state le banche a sostenere il debito sovrano e in passato, diciamo nel 2008-2009, è stato lo Stato a sostenere le banche, quindi c'è una simbiosi tra il problema che oggi fronteggiano le banche in borsa e il problema che fronteggia il debito sovrano dei paesi più esposti. Chiarissima la sua analisi, faccio solo notare che molti di questi soldi che sia gli Stati Uniti che anche l'Europa hanno speso, li hanno spesi, è vero, non per riavviare la crescita, ma per salvare le banche al cui interno spesso si erano generati gli elementi di questa crisi, per cui è strano che poi questo non venga riconosciuto. Restando però sull'Europa, lei vede un'area euro omogenea oppure, perché il problema della crescita non riguarda tutti allo stesso modo, lo dico perché purtroppo l'Italia ormai è prevista crescere nel 2012 di un misero 0,3%, altri paesi avranno crescite più interessanti pur all'interno di un rallentamento complessivo. Ma guardi, l'Europa in generale è un'area a bassa crescita. Dal nostro osservatorio noi vediamo l'economia mondiale oggi chiaramente divisa in due. Ci sono i paesi emergenti, Cina, India, ma anche Brasile, Malesia, Thailandia ed altri più piccoli, Turchia, che crescono a tassi, sì, Turchia, esatto, che crescono a tassi molto alti. Io sono stato a una conferenza dell'OCSE nei giorni scorsi a Parigi e ci hanno dato questa informazione. Negli anni 90 i paesi che crescevano al doppio della media OCSE erano solo 19. Un decennio più tardi sono 83 i paesi che crescono al doppio della media OCSE, quindi c'è stato un'enorme traslazione del baricentro economico verso i paesi emergenti, in particolare verso l'Asia, e quindi l'Europa soffre anche di questo malessere che è legato un po' alla demografia, quindi all'invecchiamento della popolazione, un po' alla perdita di capacità tecnologica. Alcuni paesi ovviamente ancora mantengono in alcuni settori le capacità innovative, certo. L'Italia soffre assolutamente di uno di un però questi però mi scusi senso. Dottor Scacciavillani, lei ha ragione, ma questi sono temi che erano conosciuti anche prima dello scoppio della crisi, quindi prima del 2008, e soprattutto non giustificano quello che sta succedendo da sei mesi a questa parte, diciamo, vogliamo dire un anno, da quando esplose la crisi greca, che però sembrava limitata alla Grecia e all'aver truccato i conti, poi l'effetto contagio su Irlanda, o contagio comunque, l'effetto anche su Irlanda, Portogallo e Spagna, e adesso l'attacco, inutile chiamare in un altro modo, all'Italia. Io vorrei capire dal suo punto di vista, visto che appunto lei fa il capo economista di un fondo sovrano molto importante, ripeto, decine di miliardi gestiti, lei si sarà chiesto, è italiano chiaramente, si sarà chiesto perché improvvisamente da maggio, fine maggio in poi, quando ancora noi eravamo percepiti meno a rischio della Spagna, lo dicevano gli spread, così come CDS, c'è stata un'accelerazione per cui l'Italia ha superato anche la Spagna come percezione del, come rischio percepito e come misura del rischio, e sembra essere il big fish, il pesce grosso da attaccare. Perché tutto in questi ultimi 3-4 mesi? Si sperava che ci fosse una risposta politica, in misure di stimolo, misure di liberalizzazione, che non sono venute. E in Italia vi è stata la manovra di luglio, che è stata esattamente un episodio che ha minato la fiducia dei mercati. Quindi, per essere ancora più espliciti, perché mi scusi ma è un mio cruccio, È chiaro che è cambiata ed è peggiorata tutta la situazione a livello soprattutto europeo, ma anche a livello mondiale la crescita e le previsioni di crescita sono più basse. Però, ripeto, siccome per quel poco che ci capisco, i fondamentali economici dell'Italia, a parte il debito che comunque era già conosciuto, sono migliori della Spagna, abbiamo un risparmio privato nettamente più alto, non abbiamo avuto problemi con le casse di risparmio locali, abbiamo un mercato immobiliare che non è andato mai in bolla e anzi come prezzi più o meno tiene, esportiamo tantissimo, siamo il secondo paese esportatore. Allora, e fino a maggio la Spagna stava sopra di noi, quindi era percepita più a rischio di almeno 30-40 punti sia sugli spread con il Bund, quindi su quanto costava la Spagna indebitarsi rispetto alla Germania, sia sui CDS, quindi sul premio che si paga per la polizza per assicurarsi contro il rischio Spagna o rischio Italia. Poi improvvisamente abbiamo superato la Spagna da fine maggio, giugno in poi. Siccome la congiuntura è cambiata per tutti, lei mi sta dicendo che la differenza per noi è stata la variabile politica? Direi proprio di sì. Anche perché c'era stato un impegno preso a livello europeo del nostro governo di arrivare a un pareggio di bilancio. La manovra di luglio, che ha spostato tutto il peso di questo aggiustamento al 2013-2014, è stato percepito come una fuga dalla responsabilità. Questo è stato il vero innesco del deterioramento. Quando questo tentativo di passare il cerino a qualche d'un altro è diventato chiaro nei mercati, da allora si è scatenata quella che così nel linguaggio comune si chiama speculazione, ma quella che io chiamo un abbandono da parte dei risparmiatori e degli investitori internazionali dei titoli di Stato italiani. Poi si è cercato di mettere rimedio a questo errore con la manovra successiva di agosto, ma anche lì ci sono state delle giravolte, delle incertezze, chiamiamole come vogliamo, che hanno di nuovo messo un grossissimo punto interrogativo sulla capacità di decisioni politiche di un paese che bene o male funziona, ha dei fondamentali sicuramente solidi, ma ha un debito enorme, è un debito che coinvolge, che è pari al 10% del PIL mondiale, quindi non stiamo più parlando di una situazione che può essere affrontata con strumenti ordinari o con istituzioni tipo la Banca Centrale, il Fondo Monetario Internazionale o l'Unione Europea, perché non ci sono abbastanza fondi per un intervento di emergenza che possa funzionare nell'immediato. Allora, guardi, adesso noi abbiamo il meteo italiano, non quello dell'Oman, chiaramente è da dare la pubblicità. Poi però dopo vorrei concludere con lei, Tosca Cevillani, perché lo chiedono anche molti ascoltatori, cercando di capire se lei ritiene che sarà necessaria una manovra correttiva dal vostro punto di vista, una manovra bis, una manovra eccezionale, ma soprattutto lei in questo momento, visto che redige poi le analisi su cui si muovono i suoi colleghi che devono investire questi miliardi, se lei comprerebbe banche italiane, titoli italiani, comprerebbe Italia e se sì in quali settori. 349-238-6666 per i vostri sms dopo il meteo. ...17:37 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Tra poco commentiamo la borsa che ha chiuso con un più 1,36% a Milano, più 1% a Parigi, più 0,60% a Francoforte, più 0,40 a Londra. Giornata molto altalenante. Però vorrei concludere questa intervista in collegamento con l'Oman. Vedo che alcuni anche si divertono, questo mi fa piacere perché è venerdì ed è stata una settimana pesante per tutti. Però ripeto, attenzione, il Fondo Sovrano dell'Oman gestisce miliardi, decine di miliardi di euro, di dollari o euro, di investimenti, e quindi è interessante capire, visto che poi è anche italiano, dal capo economista di questo Fondo Sovrano come vedono le nostre prospettive, così non ascoltiamo i tedeschi una volta tanto, i politici italiani o gli economisti italiani e europei, ma ascoltiamo chi ci guarda nettamente da fuori. Le chiedono di essere ancora più esplicito. Io non so quale sia la pena in Oman, se uno è troppo esplicito, però mi dica una cosa, insomma, e poi veniamo agli investimenti che lei farebbe in Italia. Perché, io continuo a non capirlo, nonostante la manovra di agosto, quella di luglio lei ce l'ha detto, non era credibile, l'abbiamo detto anche noi, ma la manovra di agosto, approvata in tutta forza e in tutta fretta, che porta al pareggio di bilancio, accettata anche e approvata dall'Unione Europea, dalla Banca Centrale Europea, i nostri spread, i nostri CDS, ossia i termometri sul rischio Paese Italia, restano a temperatura elevatissima. Non posso parlare per tutti gli investitori, però posso fare alcune osservazioni. È vero che la manovra è stata apprezzata, così almeno pubblicamente, dalle autorità europee, però è bene che si distingua il linguaggio diplomatico dalla realtà. Un pezzo della manovra, faccio presente, un bel pezzo consistente, è affidata a una delega fiscale. Allora, gli investitori sono andati a guardare cos'è esattamente questa delega fiscale e hanno scoperto che la prima legge delega per la riforma del fisco è stata approvata il 7 aprile del 2003 e imponeva al governo di emanare i decreti attuativi entro 2 anni. Di quella delega fiscale si è persa la memoria. Quindi questi 2 anni, il termine che il governo stesso e la maggioranza di allora si erano dati, sono stati assolutamente ignorati. Ora, a 8 anni di distanza, si ripropone una cosa del genere, proposta poi dallo stesso Presidente del Consiglio, dallo stesso Ministro dell'Economia e delle Finanze, i mercati penso si possano tranquillizzare in questo modo. Per di più, quella delega fiscale aveva come obiettivo la riduzione delle tasse. La delega fiscale, nella versione 2011, punta invece a un aumento delle tasse, quindi c'è una totale confusione su un pezzo che è molto importante. Ecco, insomma, potrei dilungarmi anche su altri aspetti, ma secondo me questo è un esempio abbastanza importante di che cosa suscita scetticismo nel mercato. Allora, mi dica solo sì e no. Lei a questo punto ritiene, visto il peggioramento anche delle prospettive di crescita, che vi sarà bisogno per tranquillizzare i mercati di una manovra correttiva in Italia? Guardi, io penso onestamente che c'è bisogno di una ulteriore fase di politica economica, nel senso che non bastano più le manovre volte a aumentare le tasse. Adesso bisogna affrontare veramente i nodi che dal mio punto di vista sono le spese e gli sprechi, perché ogni volta che si parla di riduzione della spesa qualcheduno salta su e dice il welfare, gli strati più bassi della popolazione. Beh, insomma, non ha tutti i torti, dipende che spesa vai a tagliare. Se tagli i servizi sanitari è una cosa, se tagli le consulenze ministeriali e i costi della politica è un'altra. Comunque, insomma, lei sì o no le ritiene che si deve fare comunque un'altra misura? Credo che ci sarà bisogno di misure per sburocratizzare il sistema italiano, per la giustizia civile, insomma tante di quelle cose di cui si parla da ma non tempo. Non una manovra correttiva ulteriore, però non la vedo. Questo dipenderà da quanto i conti riusciranno a tenere, ma io credo che a questo punto i mercati siano molto preoccupati anche per le prospettive di crescita. Ulteriori aumenti delle tasse non sono compatibili con una ripresa. Con una ripresa che l'anno prossimo è stimata allo 0,3%, cioè stagnazione. Un'ultima domanda, visto che lei fornisce le analisi economiche per chi poi, semplifico un po', deve investire i soldi del Fondo Sovrano dell'Oman, e sappiamo che ne avete di soldi, non lei personalmente, il Fondo Sovrano. Allora, lei comprerebbe in questo momento titoli di banche italiane, visto che siamo a livelli di prezzo, in alcuni casi quotano la metà dei mezzi propri, cioè la metà di quello che possiedono, e sono prezzi che non si vedevano da Lehman Brothers, da fine 2008. Comprerebbe banche italiane? Io credo di no, almeno perché bisogna chiarire innanzitutto come è stato calcolato questo patrimonio. Si sa che i criteri contabili sono stati rilassati, e questo già nel 2008-2009. Quindi gli attivi patrimoniali non sono iscritti a bilancio con il fair value, con il valore di mercato, ma con altri criteri su cui esistono degli interrogativi. L'altro problema è che ci sono molti istituti che hanno una leva piuttosto alta. In Italia forse un po' meno che in altri paesi, però questo espone le banche, il capitale delle banche, a grossi scossoni, soprattutto perché hanno, si sa che hanno negli attivi i titoli di Stato, e questi titoli di Stato stanno perdendo. In terzo luogo, ci sono stati degli aumenti di capitale recentemente. Alcuni di questi aumenti di capitale sono stati sottoscritti da azionisti importanti, ad esempio le fondazioni, che hanno sottoscritto in toto gli aumenti di capitale per non vedere diluite le loro quote. Però non sappiamo bene da dove siano venuti questi soldi per finanziare gli aumenti di capitale. Quindi, insomma, vorremmo capire, se non altro un po' meglio, la situazione. Si è detto, per inciso, che l'anno scorso fu fatto uno stress test di tutte le banche europee all'inizio dell'estate, e si assicurò che tutte le banche irlandesi non avrebbero avuto problemi. Quindi dice anche gli stress test, cosa che dicono molti nostri ascoltatori, ma che cosa sono serviti questi stress test? Senta, c'è un settore, per concludere, in cui lei investirebbe nella borsa italiana? Ma guardi, noi pensiamo che ci sono diverse società italiane, anche italiane, che hanno un mercato internazionale, quindi che non sono semplicemente esposte alla congiuntura italiana, che hanno delle tecnologie di primissimo ordine, che hanno della qualità del capitale umano notevole. Io non me la sento di fare nomi, perché questo potrebbe essere, diciamo così, un po' un'informazione sensibile per i mercati, però ci sono sicuramente aziende sia quotate in borsa sia non quotate in borsa, su cui decisamente abbiamo forma di attenzione. Ma macchine, utensili, moda, logistica e altri settori ad alta tecnologia. Grazie, in bocca al lupo. Non mi sembra che ne abbiate molto bisogno in Oman. Grazie comunque al capo economista del Fondo Sovrano dell'Oman, Fabio Scacciavillani. La ringrazio e buonasera. Allora, adesso andiamo al traffico e poi ai mercati, però un paio di risposte le voglio dare, perché c'è chi dice: ma insomma, questo qui parla lentamente, questo qui è il capo economista di uno dei fondi sovrani più importanti del mondo, parla lentamente, è pieno di incertezze. Possiamo ogni tanto, io capisco che questo è un paese dove si notino più le cose effimere che i contenuti, ma possiamo ogni tanto anche andare sui contenuti? No, lo dico perché abbiamo fior fior di politici e di altri esponenti bravissimi in orale, come diceva un mio compianto amico, bravissimi in orale e pessimi sullo scritto. Allora abbiamo tutta questa retorica, bravissimi a parlare, e poi non combinano una benedetta a niente, no? Allora, magari parla lentamente ma dice cose giuste, o magari parla lentamente e dice cose sbagliate, o magari parla in maniera brillante e dice delle merite cavolate. La capitale da cui parlava è Mascate, che non è una città della Brianza, Mascate in Brianza, ma è la capitale dell'Oman. A giudicare da quello che dicono sempre alcuni nostri politici, loro invece vengono da un'altra città nota della Brianza, Monate sul Serio. Poi altre risposte, traffico. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. No, scusatemi se sorrido, adesso parliamo della borsa, perché ha scritto un ascoltatore dicendo, un'ascoltatrice, non lo so, che nel paese di Monate sul Serio c'è il baby boom, ed è probabile, e molti candidati alla nostra classe politica, mi sembra di capire. Comunque, invece, condivido quello che scrivono altri ascoltatori. Gli ascoltatori sono sempre uno spunto di riflessioni che non vengono nemmeno a chi vi parla, e cioè che peccato vedere che poi un italiano, anche giovane devo dire, perché noi l'abbiamo conosciuto tramite alcune cose che ha pubblicato in rete e appunto pubblicazioni scientifiche, come il capo economista del Fondo Sovrano dell'Oman vada in Oman e da noi invece restino altri personaggi. La borsa, dai. Più 1,36% e ancora più 0,63% Francoforte, più 1% Parigi e più 0,50% Londra. C'è chi contesta il fatto che il serio non scorra in Brianza. Adesso non vorrei fare una puntata geografica. Abbiamo detto che Mascate è la capitale dell'Oman e non è un paese da Brianza. Poi c'è un altro paese, tra Bergamo e Milano, in cui appunto alcuni segnano il baby boom. Però non vorrei fare la puntata su Monate sul serio. Eleonora Micheli, Radio Corriere delle 24 ore, buonasera. Buonasera. Ci sei mai stata tu? No. Allora, andiamo avanti con le banche. Oggi il recupero tutte tranne il Banco Popolare, meno 3%, a 1,11 €. Come mai il Banco Popolare negativo? Poi commentiamo invece le altre banche tutte in recupero. Sì, tutte le banche sono scattate al rialzo tranne il Banco Popolare, e il motivo è che il Financial Times questa mattina ha ventilato l'ipotesi che le autorità europee impongano un'immediata iniezione di liquidità e soprattutto una ricapitalizzazione a 16 banche del vecchio continente, e tra queste è stata citata anche il Banco Popolare. In verità il Banco Popolare ha smentito la notizia, ma il mercato comunque continua a tenere la guardia alta e appunto ha fatto scivolare le azioni del 3%. Ancora, Intesa San Paolo più 6,14%, Unicredit più 4,40%, Ubibanca più 4,11%, recuperi, rimbalzi tecnici, chiamateli come volete, o c'è dell'altro? C'è dell'altro, nel senso che le banche europee hanno iniziato a galoppare proprio nell'ultima ora di contrattazione, soprattutto le banche francesi, e dopo che ha parlato il governatore della banca austriaca e anche membro del consiglio direttivo che è presente a Washington. Il banchiere ha indicato ai giornalisti che verrà discusso il progetto eventuale che la BCE reintroduca operazioni di rifinanziamento a un anno per gli istituti di credito, e quindi questa operazione, che non viene più effettuata dal 2009, darebbe una vera e propria boccata di ossigeno a tutte le banche che, si è detto nei giorni scorsi, sono in difficoltà. Sono ovviamente ipotesi, rumor, ma questo ha fatto scattare subito gli ordini in acquisto, soprattutto nei confronti delle banche francesi. BNP Paribas è arrivata subito a guadagnare oltre il 9% e ha incoraggiato gli acquisti anche un po' su tutto il settore, compreso sulle banche italiane. Ecco, poi c'è invece la vicenda della Popolare di Milano, che è un po' diversa, nel senso che era l'unica banca che ieri continuasse a crescere nonostante il calo di tutte le altre. Qui c'è, insomma, entra o non entra Matteo Arpe con 200 milioni o giù di lì, e come si difende Ponzellini? Come mai tutto questo interesse del mercato più 7%? Più 7% e tra scambi consistenti, 6,4 milioni di pezzi scambiati oggi contro una media dell'ultimo mese poco superiore a 1 milione di pezzi. Martedì ci sarà il consiglio di amministrazione che discuterà sicuramente di un eventuale cambiamento della governance e anche dell'aumento di capitale, ma soprattutto il mercato inizia a scommettere che si è interessato non solo Matteo Arpe con il suo fondo Sator, ma anche una cordata di imprenditori che, secondo indiscrezioni rilanciate dalla stampa, sarebbe capitanata da Andrea Bonomi, che è a capo del fondo di private equity Invest Industrial. Però pare che siano interessate anche altre famiglie milanesi, tra cui ad esempio è stato fatto il nome della famiglia Crespi e anche dell'ex sindaco di Milano Moratti. Sì. La Moratti. Allora, una domanda ancora invece. Anche oggi, come ieri, come nei giorni scorsi, sta emergendo chiara una differenza tra il mondo bancario, che si muove obiettivamente come sull'ottovolante, e invece un ragionamento, a mio avviso, un po' più serio sui titoli ciclici, cioè quelli che sono molto legati alla congiuntura, quelli che esportano, quelli che lavorano sui consumi, che fatturano grazie all'andamento del ciclo economico. È questo il motivo per cui anche oggi perdono sia Prismian meno 4,20%, Autogrill meno 3%, Saipem -1,20, di nuovo gli energetici, e penso a Saipem, oltre che a Saipem anche a un titolo come Eni ed Enel, che sono rimasti un po' più al palo rispetto agli altri titoli? Sì, esatto, infatti ovviamente è da giorni che si parla della possibilità di una recessione, la Federal Reserve l'ha indicato senza tanti giri di parole, ovviamente quindi si vendono le azioni che sono più legate all'andamento del ciclo economico, come ha detto tu, Fiat Industrial almeno un 1%, ma anche altre azioni cicliche come oltre a i titoli citati da te anche Buzzi Unici almeno 1,3%, che è facilmente ovviamente è strettamente legata a quello che è l'andamento della congiuntura. Allora, resta con noi dopo il GR ancora un paio di titoli, i migliori e i peggiori. Sì, molti di voi fanno notare che magari i nostri politici avessero un po' di preparazione. Ricordate il sottosegretario dell'economia o lo sviluppo economico ospite di Milan? Niente. E poi mi piacerebbe fare un bel sondaggio di fronte al Parlamento e chiedere ai deputati cos'è lo spread e quanto vale lo spread sul Bund. Così poi vediamo cosa rispondono. GR. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora concludiamo l'approfondimento di borsa, poi restiamo sui mercati, ma quelli delle materie prime, e poi cerchiamo di capire quale soluzione politica, perché solo politica può essere la soluzione, si potrebbe prospettare con chi fa parte del gruppo misto alla Camera, ma soprattutto è di formazione un economista. Allora Micheli, due titoli ancora, al di là appunto dei ciclici e dei bancari, Mediaset e Finmeccanica. Mediaset. Sì, Mediaset oggi ha continuato a essere debole, in verità sul finale meno 1,92, sì. Ma durante della seduta anche oggi era arrivata a perdere oltre il 5%. Tra l'altro è andata male anche Mondadori che ha perso oltre il 3%. Questo perché ovviamente i due titoli risentono dell'instabilità politica e soprattutto appunto dei problemi a livello governativo. Ovviamente le due società fanno capo a Berlusconi e per questo motivo stanno andando male in borsa. Per quanto riguarda invece Finmeccanica, i titoli si sono messi in evidenza sin dalle prime battute di questa mattina, visto che il settimanale Il Mondo ha riferito che indiscrezioni secondo le quali la società starebbe trattando con il gruppo franco-tedesco e ADS, che tra parentesi alla borsa di Parigi ha perso l'1%, per vendere l'americana DRS, società che aveva rilevato solamente nel 2008, e pare che il gruppo estero sia pronto a mettere sul piatto fino a 5 miliardi di dollari, e quindi questo farebbe bene ovviamente alle casse di Finmeccanica. In verità la società ha smentito, ma evidentemente il mercato ritiene che qualcosa ci sia, visto che ha fatto volare le azioni. Sì, ed è la seconda volta in due settimane che Finmeccanica è obbligata a smentire cessioni. La prima volta fu quella di Ansaldo STS, Ansaldo Breda alla General Electric, e adesso anche della neoacquisita, perché tre anni vado a memoria che hanno comprato DRS Technologies, società enorme in America nella tecnologia militare e anche civile, elettronica militare e civile. Tra l'altro allora vi fu proprio lo scontro anche con il ministro Tremonti, che riteneva un'operazione troppo costosa. Comunque staremo a vedere i migliori e i peggiori da questo punto di vista. KR Energy più 16%, Archimedica più 12%, Le Buone Società più 8,50%, BNP Paribas più 8,24%, Bayer più 7,60%, e poi la Popolare di Milano. Le peggiori in assoluto: Best Union Company meno 9,77%, Premafin Finanziaria meno 6,50%, Munich Re meno 6,37%, Sopaf meno 6,35%. Grazie e un buon fine settimana Eleonora Micheli, a tutti i colleghi di Radio Corriere. Sole 24 ore, andiamo sui mercati delle materie prime. Lo so, c'è chi si illude, dico che si illude, che il calo del prezzo del petrolio comporti un calo del prezzo della benzina. Ormai sono stufo di parlare, non c'è più una correlazione tra le due cose, però è un dato di fatto che il petrolio oggi è sceso, e che l'oro oggi è sceso sotto i 1700 dollari l'oncia, e il petrolio è sceso sotto gli 80 dollari di nuovo, sta a 78 dollari al barile. Ma non sono le uniche materie a calare, sono tutte in calo. Allora, Sissi Bellomo, che segue proprio per le pagine sulle 24 ore le materie prime, buonasera. Buonasera. Ci racconti, insomma, rame sotto la soglia degli $8,000 la tonnellata, 7.400, meno 6% ieri i futures a Londra. E i titoli minerari che ne risentono, Rio Tinto, platino in calo a $1,692, il palladio a 660, lo stagno ha perso il 9% ieri, il nickel il 7%, il piombo il 5%, alluminio e zinco meno 4%, siamo ai minimi dall'estate. Il motivo? Dell'estate 2010, scusami. Dell'estate 2010, assolutamente. Oggi, tra l'altro, le vendite continuano in modo particolare sui metalli industriali, mentre si sono un po' ridotte per petrolio e prodotti agricoli. I metalli industriali è un segnale che può essere interpretato come allarmante per l'economia, perché sono, e soprattutto il rame, che addirittura nel mondo anglosassone viene soprannominato Dr. Copper, perché è uno degli indicatori anticipatori dei cicli economici, dei cambiamenti di ciclo economico. Gli operatori sui mercati delle materie prime, che già erano un po' più pessimisti, l'umore stava un po' cambiando negli ultimi giorni, sembra che si siano veramente decisi ieri che è ora di vendere, perché le prospettive dei consumi, della domanda dei metalli industriali stanno diventando sempre più grigie, a maggior ragione perché ci sono segnali, cominciano ad esserci segnali insistenti del fatto che la Cina, ovviamente non hanno i problemi che abbiamo noi nel nostro vecchio mondo, però che anche la Cina sta rallentando nella sua attività manifatturiera, e quindi forse non sarà sufficiente il suo consumo a compensare il calo che ormai è assodato nei consumi, nella domanda di materie prime, ci sarà in Europa e negli Stati Uniti, che sono, ahimè, ormai sull'orlo di una recessione. Allora, vediamo di capirci, perché è chiaro che il calo del prezzo delle materie prime è anche una buona notizia per l'Italia, che è importatore netto, che è un paese trasformatore, quindi l'industria meccanica, metalmeccanica, ma non solo, le utilizza moltissimo e quindi gli costerà un po' di meno produrre. Certo che poi ti costa un po' di meno produrre, ma devi anche vendere, questo è un po', certo, il ragionamento. Ecco, su questo i cali più forti, sì, da dove arrivano? Cioè arrivano dalla frenata asiatica, perché la frenata europea, per quanto c'è, è una frenata di una macchina che già andava lenta, per cui poi freni poco. È nota e anche in parte scontata dai mercati, anche quelli delle materie prime, ma l'Europa non conta così tanto in fondo per le materie prime. Ormai ci siamo abituati a vedere che la Cina è diventata il primo consumatore, certo, il primo importatore di moltissime materie prime. Per il petrolio è ancora seconda alle spalle degli Stati Uniti, però i suoi consumi sono gli unici che crescono veramente con una grandissima forza insieme a quelli di altri paesi emergenti. E per cui la Cina è una bussola importantissima per chi opera sulle materie prime. Se la Cina consuma meno, allora le materie prime non vanno, non garantiranno ritorni come si pensava che garantissero in precedenza, e così via. Che questa situazione duri sui mercati non è dato saperlo, ovviamente. Insomma, la Cina comunque cresce ancora del 9% annuo, che non è, sì, che non è poco. Però sicuramente c'è un'inversione di tendenza che lascia pensare. Che è anticipatore, perché ricordiamo che il mondo delle materie prime, la borsa più importante, resta Chicago, se non ricordo male, per molti. Chicago per i prodotti agricoli, per i cereali soprattutto. Molti prodotti sono a New York o a Londra, di quelli industriali. Allora, Chicago, Londra e New York sono borse che lavorano con i futures, con i contratti futuri, e cioè vanno a stabilire quello che sarà il prezzo fra mesi o fra anni, non il prezzo attuale, non il prezzo di compra vendita attuale. Ecco perché vengono definiti mercati anticipatori, perché anticipano il ciclo economico. Ci chiedono gli ascoltatori al 349-238-6666 se questo calo, che ha portato i prezzi dei titoli minerari, ma non solo, ai minimi dal 2010, dall'agosto 2010, vale anche per le materie prime di carattere agricolo. Quelle di carattere agricolo sono scese parecchio ieri, oggi stanno scendendo molto meno. No, non vale, salvo che per il cacao, che è ai minimi dall'autunno scorso, dall'autunno del 2010. Gli altri sono attualmente ai minimi da 1, 2, 3 mesi, questo per i cereali, il caffè, lo zucchero. Sono prodotti che hanno delle dinamiche particolari. Certo. Sono legati ai consumi economici fino a un certo punto, anche perché la domanda alimentare è meno elastica di altre domande, ovviamente. Sono sostenuti comunque da un maggiore consumo di alimentari di un certo tipo, come le carni nei paesi in via di sviluppo, e poi hanno una parte climatica e meteorologica non indifferente, per cui il segnale è netto e chiaro su tutte quelle materie prime che servono all'industria, diciamo in maniera assolutamente ancora, sì, ancora... Le altre seguono al traino, e comunque insomma si sta scaricando un po' l'asset class, come direbbero, sì, gli investitori, quelli che hanno studiato, cioè non hanno noi studiato. Grazie, non io, grazie a Sissi Bellomo del Sole 24 Ore. Traffico, e poi vediamo di parlare con l'eretico Nicola Rossi, eretico quando era dentro il PD, al gruppo ministro della Camera, economista, è presidente anche dell'Istituto Bruno Leoni, uno degli istituti che più caldeggia le liberalizzazioni in questo paese, è anche entrato nel comitato direttivo di Italia Futura, che è l'organizzazione di Luca Cordero di Montezemolo, e anche di questo parleremo. Il traffico, però. Ultima parte di Focus Economia. Allora, ho detto molte volte che in questo periodo non invitiamo politici né dell'opposizione né del governo, ma non tanto perché questa sia la linea dei convegni attualmente della Confindustria, perché vorremmo parlare con persone che non sono di parte, che mantengano un po' di lucidità nell'analisi, e poi perché non mi sembra che obiettivamente il governo in primo luogo, ma anche l'opposizione, stiano dando grandi risposte a questo paese. Abbiamo fatto un'eccezione, per il senatore Nicola Rossi. L'eccezione l'abbiamo fatta perché a noi piacciono gli eretici, e Nicola Rossi, quando era nel PD, era il più eretico degli eretici come visione. Poi se n'è andato dal PD nel gruppo misto al Senato, poi è diventato anche presidente dell'Istituto Bruno Leoni, che è l'istituto che più punta sulle liberalizzazioni, sulla concorrenza in questo paese come scuola di pensiero. E adesso è anche membro del comitato direttivo di Italia Futura, e quel centro culturale, chiamatelo come volete, creato da Luca Cordero di Montezemolo. Senatore, buonasera. Buonasera a voi. Dopo questa premessa non mi deluda. Allora, andiamo rapidi. Sì. Oggi su molti giornali, tra cui sulle 24 ore, ma non solo, veniva messo in evidenza lo scontro durissimo ieri tra il presidente del Consiglio Berlusconi e un Tremonti accusato di essere andato al Fondo Monetario Internazionale. Quanto pesa uno scontro tra il ministro, che è inutile girarci attorno, in Europa aveva la maggiore reputazione del governo? Pesa tanto, io credo, perché questo non è assolutamente il momento di dare una immagine divisa, nel momento in cui sull'Italia credo che pochi si rendano conto che pesa una responsabilità straordinaria, perché noi siamo in grado, se prendiamo con determinazione e con lucidità le misure necessarie, di risolvere non solo il nostro problema, ma una bella fetta del problema europeo, che in parte dipende certamente da noi. E se invece quelle misure non saremo in grado di prenderle come e dove dovremo prenderle, potremmo essere noi a creare un problema di dimensioni enormi all'intera Europa. Quindi da questo punto di vista veramente la classe politica italiana e naturalmente il governo dovrebbero avvertire questo di più di responsabilità. Se poi le cose fra il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Economia sono tali da non poter essere risolte, è bene che le risolvano in qualche maniera rapidamente, perché non c'è niente di peggio che questa situazione di evidente non unità di intenti. Allora, qualche secondo fa il Ministro Tremonti a Washington per il Fondo Monetario e l'OCSE ha detto: la soluzione della crisi dipende dalla Germania. La crisi è tornata nella forma di una crisi europea, la soluzione si trova solo se la Germania definisce una posizione meno incerta e mostra il coraggio, la forza e la visione di investire di più sull'Europa. È d'accordo che la crisi possa essere risolta dalla Germania? Io molte volte ho pensato che il ministro avesse dato una lettura corretta della situazione, in questo caso non ho la stessa valutazione. Perché? Perché la Germania farà ciò che sostanzialmente le viene chiesto, che è quello di attribuirsi un di più di responsabilità, solo se avrà di fronte dei partner che in maniera inequivoca dimostreranno di aver fatti propri quei principi di rigore, di disciplina, di bilancio che devono fare propri. Non ci si carica sulle spalle un peso come quello, appunto, come può essere quello dell'Eurozona, se non si è convinti di avere davanti dei partner affidabili. Quindi in questo senso la soluzione della crisi è certamente nelle mani della Germania, ma la Germania farà ciò che deve fare per salvare l'euro, per salvare l'Eurozona, solo se noi dimostreremo di essere inattaccabili sotto molti profili, e ancora non lo siamo. L'opposizione, cioè, perché non si riesce a trovare una soluzione spagnola al di là del fatto che in Spagna Zapatero ha detto che non si ricandida e ha indetto le elezioni, cioè ha il governo delle enormi responsabilità, e lo ha chiarito anche l'agenzia di rating Standard & Poor's, però anche dall'opposizione non è che abbiamo letto tutte queste proposte, al di là della critica al governo, che ci mancherebbe, il ruolo dell'opposizione, ma insomma, lei che colpe attribuisce all'opposizione? Io attribuisco all'opposizione una colpa soprattutto, questa era una straordinaria opportunità per l'opposizione, veramente straordinaria, ma alla fine della storia, se andiamo a guardare la contromanovra dell'opposizione, era in larga misura tasse così come quella del governo, quindi l'opposizione ha perso un'occasione straordinaria per diversificare se stessa. Se andiamo a guardare per esempio la posizione che l'opposizione ha preso sulla questione della costituzionalizzazione del pareggio di bilancio, la stessa storia, diciamo, anche lì a fronte della inazione, perché di questo purtroppo si parla, si tratta, del governo, troviamo una carenza di azione da parte dell'opposizione. Io credo che questo sia uno dei problemi più seri che abbiamo davanti, diciamo, sotto elezioni gli spagnoli sono riusciti a trovare una unità di intenti su un punto chiave. Noi siamo ancora lì, diciamo che ci balocchiamo con questa storia della revisione dell'articolo 81 e non riusciamo a fare un passo avanti, perché il governo ha presentato una sua proposta, ma insomma, che io sappia, siamo ben lontani ancora dal primo voto in Parlamento. Allora, che cosa propone o proporrebbe lei? Perché insomma, il Bruno Leoni è un istituto che si occupa molto di liberalizzazioni. Ma lei si sarà chiesto perché il ministro Tremonti e nemmeno l'opposizione abbiano spinto per privatizzare un pezzetto di Eni, un pezzetto di Enel, un po' di Finmeccanica, le Poste? Cioè, il patrimonio c'è ancora, Perché manca la forza politica per farlo, perché non manca sia all'interno della maggioranza che all'interno dell'opposizione una leadership in grado di riunire l'intero gli schieramenti su queste posizioni. Io personalmente comincerei proprio di là. Io penso che la prima cosa che vada fatta è un piano di dismissioni molto ampio, in grado, che non necessariamente deve avvenire overnight, non è che deve avvenire stanotte. Quando si dice ma così svenderemmo, si dicono cose che veramente non stanno in cielo e in terra, si possono costruire strumenti finanziari in grado di tenere conto anche del fatto che potremmo avere bisogno di più tempo per farlo, ma oggi chiariremmo un obiettivo di fondo, e cioè nel momento in cui c'è un problema sul debito sovrano italiano la prima cosa da fare è ricorrere agli asset spesso e volentieri non utilizzati per abbattere quel debito e conseguentemente l'onere e il servizio del debito stesso. Allora, lei è entrato da poco anche nel comitato direttivo di Italia Futura, la creazione di Montezemolo. Secondo lei Italia Futura diventerà un partito e quindi Montezemolo entrerà in politica? Guardi, mi hanno fatto questa domanda ieri e io ho risposto nell'unica maniera che conosco. Io credo che a prescindere da quello che sarà il futuro di Luca Cordero di Montezemolo e da quello che saranno le sue scelte, Italia Futura fa politica già oggi perché si occupa e si preoccupa del destino del paese. Questo è fare politica. Molte volte diciamo sembra quasi che la politica la si debba fare solo nella maniera codificata dai partiti e quindi diciamo con tutte le forme, i riti che i partiti... Sì, ho capito, no, è vero senatore, però insomma lei si sarà fatto un'idea, no? Scende, come opinione personale, scenderà in politica, cercherete insomma, vista la situazione dell'opposizione, del governo... Ma anche qui la risposta è credo semplice. Il vuoto che esiste nella politica italiana io credo che sarà occupato con certezza da qualcuno. Se non lo farà Italia Futura, se non lo farà Luca Cordero di Montezemolo, lo farà qualcun altro. Perché quello a cui noi assistiamo negli ultimi tempi è, guardi ai sondaggi, tutti i partiti tendono a non guadagnare o a perdere. E cresce la massa di persone che non sanno esattamente che cosa fare. Allora, per usare uno slogan che hanno usato le donne italiane, se non ora quando, secondo lei, per Montezemolo? Se non ora quando, per un'offerta politica diversa, ripeto, non mi faccia prendere decisioni che spettano ad altri. Mica è venuto qua solo per criticare l'opposizione. Non mi faccia dire diciamo cose che coinvolgono altre persone. Ma secondo me se non ora quando, certamente per il paese, sicuramente. Grazie. Anche perché le decisioni che abbiamo davanti sono serie sono da prendere anche, abbiamo davanti settimane, non mesi come qualcuno pensa. E neanche anni. Esattamente. E neanche anni. Grazie al senatore Nicola Rossi, grazie a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza anche questa settimana in redazione. Da Sebastiano Barisoni l'augurio di un buon fine settimana. Lunedì torneremo come sempre alle 17 a raccontarvi un'altra settimana economico-finanziaria. Radio 24. La passione si sente.